Il terzo anello ad alta voce. La certosa di Parma di Stendhal. La duchessa pensò bene di non far svegliare Fabrizio. Provava per Mosca uno slancio di ammirazione, qualcosa che assomigliava moltissimo all'amore. Tutto sommato, pensò, bisognerà che lo sposi. Gli scrisse subito una lettera e mandò uno dei suoi uomini a portargliela. Non trovò il tempo di sentirsi triste quella notte. Il giorno dopo, verso mezzogiorno, vide sul lago una barca con 10 rematori. Veniva avanti molto in fretta. Dopo un po' lei e Fabrizio poterono vedere che a bordo c'era un uomo che indossava la livrea della casa del principe di Parma. Era un corriere e prima ancora di sbarcare le gridò «La rivolta è stata domata!». Poi il corriere le consegnò molte lettere di Mosca, una bellissima lettera della principessa e un'ordinanza su pergamena del principe Ranuccio Ernesto V, che la insigniva del titolo di duchessa di San Giovanni e la nominava prima dama di compagnia della principessa madre. Quel giovane principe appassionato di mineralogia, che lei aveva sempre pensato fosse solo un imbecille, aveva avuto l'intelligenza di scriverle un bel bigliettino. Ma c'era un po' di amore alla fine. Il conte, signora duchessa, dice che è contento di me. In realtà non ho fatto altro che espormi a qualche colpo di fucile stando al suo fianco e il mio cavallo è stato colpito. E a vedere tutta l'importanza che danno a una sciocchezza del genere, mi è venuta una gran voglia di partecipare a una vera battaglia, ma che non sia da combattere contro i miei sudditi. Devo tutto al conte. I miei generali, che non hanno mai fatto una guerra, si sono comportati come un branco di conigli. Credo che un paio di loro siano scappati fino a Bologna. Da quando, dopo quel triste avvenimento, sono salito al potere, l'ordinanza che più mi ha fatto piacere firmare è quella che vi nomina prima dama di compagnia di mia madre. Mia madre e io ci siamo poi ricordati che un giorno voi avete mostrato di apprezzare la bella vista che si ha dal palazzetto di San Giovanni, che un tempo, almeno a quanto si dice, è appartenuto al Petrarca. Mia madre ha voluto farvi omaggio di quella piccola proprietà e io, non sapendo che cosa offrirvi, né d'altra parte osando offrirvi tutto quanto è vostro, vi ho insignito del titolo di duchessa del mio stato. San Severina è un titolo romano, siete abbastanza dotta da saperlo. Ho concesso il gran cordone del mio ordine al nostro degno arcivescovo, che ha dimostrato una fermezza d'animo del tutto inconsueta in un uomo di 70 anni. E spero che non me ne vorrete se ho fatto tornare a Parma tutte le signore che erano state mandate in esilio. Da questo momento, mi dicono, dovrò sempre scrivere prima della mia firma le parole vostro affezionato. E sono proprio seccato di dover ripetere tanto spesso una dichiarazione che in realtà è veramente sincera soltanto quando scrivo a voi. Vostro affezionato Ranuccio Ernesto. Dopo un biglietto scritto in un tono del genere, chiunque avrebbe pensato che la duchessa fosse sul punto di godere del più alto favore. Ma lei trovò che c'era qualcosa di molto strano in certe lettere di Mosca arrivate un paio d'ore più tardi. Senza dar spiegazioni precise, Mosca le consigliava infatti di ritardare di qualche giorno il suo ritorno a Parma e di scrivere alla principessa dicendo che aveva dovuto rimandare la partenza per una grave malattia. Ma la duchessa e Fabrizio partirono lo stesso per Parma, subito dopo pranzo. Gina, anche se non voleva rendersene conto, aveva intenzione di affrettare il matrimonio di Clelia con Crescenzi. Quanto a Fabrizio, lui si lasciò andare per tutto il viaggio a manifestazioni di entusiasmo che sua zia trovò molto ridicole. Il fatto è che Fabrizio sperava di poter rivedere subito Clelia e era deciso a rapirla, anche contro la sua volontà, se non ci fosse stato altro modo per mandare all'aria quel matrimonio. Fu un viaggio davvero allegro. All'ultima stazione di posta, prima di Parma, Fabrizio, che di solito era vestito semplicemente di nero, come a lutto, volle fermarsi un momento per rimettersi l'abito da prete. Quando tornò dalla duchessa, lei gli disse: «C'è qualcosa di poco chiaro nelle lettere di Mosca. Se vuoi darmi retta, fermati qui per qualche ora. Ti manderò a chiamare appena avrò parlato al nostro grande ministro». Era un'idea molto ragionevole e Fabrizio, anche se a malincuore, dovette arrendersi. Fu con uno slancio di gioia degno di un ragazzo di 15 anni che Mosca accolse la duchessa. La chiamava moglie mia. Non voleva decidersi a parlare di politica. Finalmente, quando dovette arrendersi alle malinconiche esigenze della ragione, le disse: «Hai fatto benissimo a evitare che Fabrizio arrivasse qui ufficialmente. Siamo in piena reazione. Prova a indovinare che bel collega mi ha dato il principe come ministro della giustizia. Rassi, cara mia, Rassi, l'uomo che quando erano in ballo quei nostri affari li ho trattato da quel verme che è». A proposito, la sentenza di Fabrizio non ho potuto farla a pezzettini per la semplice ragione che quel mascalzone di Rassi non me l'ha consegnata. Avete fatto benissimo, vi dico, a evitare che Fabrizio tornasse ufficialmente in città. La sentenza è sempre esecutoria. D'accordo, adesso Rassi non avrà il coraggio di farlo arrestare, ma forse tra 15 giorni, sì. Se Fabrizio vuol proprio tornare a Parma, è meglio che venga a abitare a casa mia. «Ma i motivi di questa situazione», disse la duchessa stupita, «hanno convinto il principe che io mi do delle arie da dittatore, da salvatore della patria, che sono deciso a trattarlo come un ragazzo. E la cosa più grave è che dicono che parlando di lui io avrei detto proprio quel ragazzo. Può anche darsi, ero così esaltato quel giorno. Figuratevi che mi sembrava un grand'uomo solo perché non si era neanche spaventato troppo in mezzo alle prime fucilate della sua vita. Non è affatto stupido, ha anche più stile di suo padre. E poi, non diciamolo troppo forte, ma come fondo mi sembra buono, onesto. Ma proprio perché è giovane e sincero, quando vanno a riferirgli qualche mascalzonata, lui si chiude e si mette subito sulle difensive e è convinto che per essere capaci di notare certe cose bisogna avere il pelo sullo stomaco. Bisogna pensare a come è stato educato». «Dovevate pensarci, eccellenza, che un giorno sarebbe diventato lui il padrone. Bisogna mettergli vicino un uomo intelligente. Prima di tutto abbiamo l'esempio dell'abate de Condillac. È stato proprio il mio predecessore, il marchese Felino, che lo ha fatto venire alla corte di Parma. E il risultato? Ne ha fatto il re dei cretini del suo allievo. Non faceva altro che andare dietro alle processioni e nel 1796 non ha saputo trattare con il generale Bonaparte che gli avrebbe triplicato il territorio dei suoi stati. E poi non ho mai pensato di poter resistere al ministero per 10 anni di seguito. È da un mese che ne ho abbastanza di tutto. Voglio soltanto mettere da parte un milioncino prima di lasciare al suo destino questa maledetta baracca. Anche se l'ho salvata io, questa baracca. Se non era per me, qui a Parma per un paio di mesi ci sarebbe stata la Repubblica. Ricascheremo in una bella monarchia stile XVIII secolo, il confessore e l'amante. In fondo al principe piace soltanto la mineralogia. E forse gli piacete anche voi, signora. Da quando è al potere, il suo cameriere, quello che gli ho fatto nominare capitano il fratello, adesso ha 9 mesi di servizio, il suo cameriere, dicevo, gli ha ficcato in testa l'idea che lui deve considerarsi più felice degli altri perché sulle nuove monete ci sarà il suo profilo. Il risultato di questa bella idea è che adesso il principe si annoia. E come rimedio contro la noia, adesso gli ci vuole un aiutante di campo. Ma anche se mi offrisse quel famoso milioncino che ci serve per poter fare una bella vita a Napoli o a Parigi, non me la sentirei proprio di diventare il suo rimedio contro la noia e di passare 4 o 5 ore al giorno con Sua Altezza. D'altra parte, siccome sono più intelligente di lui, in capo a un mese finirebbe per considerarmi un mostro. Suo padre era cattivo, invidioso, ma aveva fatto la guerra e comandato dei corpi d'armata, e questo gli aveva dato un certo contegno. Aveva la stoffa del principe, e con lui, bene o male, potevo fare il ministro. Con questo galantuomo di figlio, candido e veramente buono com'è, io sono obbligato a diventare un intrigante. Il salotto della vostra nemica, la Raversi, è più potente che mai. È lì che hanno tirato fuori la storia che io che ho fatto sparare sulla folla, che ero decisa a uccidere 3.000 uomini se fosse stato necessario, piuttosto che lasciare oltraggiare la statua del principe che era stato il mio signore, sarei un liberale arrabbiato che avrei voluto far firmare una costituzione e altre assurdità del genere. A furia di parlare di repubblica, quei pazzi ci impedirebbero di godere i vantaggi della migliore delle monarchie. Insomma, signora, tra le persone che apparterrebbero a questo nuovo partito liberale di cui i miei nemici dicono che io sarei il capo, voi siete l'unica sul cui conto il principe non si sia espresso in termini poco piacevoli. E allora, cara duchessa, ci conviene fare come al tric-trac. Passiamo la mano. Ma non saremo affatto ricchi. In fondo né voi né io abbiamo bisogno di lusso. Mi basta avere a Napoli un posto in un palco al San Carlo e un cavallo, e sono più che soddisfatto. Non sarà certo per il nostro lusso, poco o tanto che sia, che potremo aspirare a avere una certa posizione in società. Sarà il piacere che le persone intelligenti del posto potranno forse trovare venendo a prendere una tazza di tè a casa vostra. Ma, disse la duchessa, che cosa sarebbe successo quel triste giorno se vi foste tenuto in disparte, come spero che farete la prossima volta? I soldati avrebbero fraternizzato con il popolo, ci sarebbero stati 3 giorni di massacri e di incendi, perché ci vogliono 100 anni prima che la Repubblica possa essere una realtà in un paese come questo. Poi una 15ina di giorni di saccheggi, finché sarebbero arrivati d'oltre confine un paio di reggimenti a dare l'alt. Poi la duchessa, ancora tutta sconvolta da quelle notizie, volle andare subito dalla principessa per ringraziarla. Quando entrò nel salotto, una delle dame le consegnò la chiavetta d'oro da portare alla cintura, insegna di suprema autorità negli appartamenti della principessa. Clara Paolina si affrettò a far uscire tutti, ma una volta sola con la sua amica incominciò a parlare senza spiegarsi bene. La duchessa non capiva, si teneva sulle sue, ma poi la principessa si mise a piangere, la abbracciò, le disse: «Sento che le mie disgrazie stanno per ricominciare. Mio figlio mi tratterà peggio di suo padre». «Farò in modo che questo non avvenga», rispose la duchessa di slancio. «Ma prima di tutto bisogna che Vostra Altezza Serenissima si degni di accettare l'omaggio di tutta la mia riconoscenza e del mio profondo rispetto». «Che cosa volete dire?» chiese la principessa. Era inquieta, aveva paura che la duchessa volesse dimettersi. «Facciamo così. Tutte le volte che Vostra Altezza mi darà il permesso di voltare a destra la testa di quella statuina cinese che c'è sul caminetto, vorrà dire che mi darà anche il permesso di chiamare le cose con il loro vero nome. Ma se non è che questo, cara duchessa, disse Clara Paolina alzandosi e correndo a voltare la testa della statuina, poi aggiunse con un tono di voce incantevole: «Parlate liberamente, signora dama di corte». «Signora», disse la duchessa, «Vostra Altezza ha visto giusto. Stiamo correndo un grave pericolo, voi ed io. La sentenza contro Fabrizio non è stata affatto revocata, e così, quando vogliono disfarsi di me e insultare voi, non devono far altro che buttarlo di nuovo in prigione. La nostra posizione non è mai stata peggiore. Quanto a me personalmente, io sposo il conte e andiamo a stabilirci a Napoli o a Parigi. L'ingratitudine di cui il conte è stato vittima in questi ultimi tempi lo ha completamente disgustato della politica, e se non fosse per Vostra Altezza Serenissima, gli consiglierei di continuare a occuparsi di tutto questo imbroglio solo se il principe gli offrisse una somma enorme. Vorrei che Vostra Altezza mi consentisse di spiegarle che il conte, che all'inizio della carriera aveva 130.000 franchi, oggi può contare soltanto su una rendita di 20.000 lire. Era tanto che continuavo a dirglielo, di pensare un po' a se stesso, ma non mi aveva mai dato retta. Durante la mia assenza si è messo deliberatamente in urto con gli appaltatori delle imposte di Stato, che erano dei mascalzoni, e li ha sostituiti con altri mascalzoni che gli hanno dato 800.000 franchi. «Come?» disse la principessa stupefatta. «Mio Dio, sono davvero irritata, signora!» disse la duchessa calmissima. «Devo girare la testa della statuina?» «No, no!» disse la principessa. «Ma mi dispiace che un uomo di carattere come il conte abbia pensato di mettersi a guadagnare soldi in quel modo. Senza quel furto sarebbe stato disprezzato da tutta la gente onesta». «Ma, santo cielo, com'è possibile, signora? Tranne il mio amico marchese Crescenzi, che ha 300.000 o 400.000 lire di rendita, tutti rubano qui. E come volete che non rubino in un paese dove la riconoscenza per i grandi servigi resi allo Stato non dura neanche un mese? L'unica cosa concreta, l'unica cosa che resista dopo che si è caduti in disgrazia sono i soldi. Mi permetterò di dirvi delle verità terribili, signora. Ve lo permetto io», disse la principessa con un sospirone, «ma è così tremendamente spiacevole». «E allora, signora, vi dirò che vostro figlio, il principe, che pure è un perfetto galantuomo, può farvi soffrire molto più di quanto abbia fatto suo padre. Di carattere il defunto principe ne aveva, quasi come chiunque altro. Il nostro attuale sovrano non è sicuro di voler la stessa cosa per 3 giorni di seguito, e allora, per poter essere sicuri di lui, bisogna stargli continuamente vicini e non lasciarlo parlare con nessuno. La cosa non è difficile da intuire. E il nuovo partito ultra, capeggiato da quei furbacchioni di Rassi e del Raversi, cercherà di dare al principe un amante. E quell'amante avrà la possibilità di fare la propria fortuna e di distribuire qualche incarico di poco conto, ma dovrà garantire al partito che il principe non cambi continuamente idea. Perché la mia posizione alla corte di Vostra Altezza sia sicura, io ho bisogno che Rassi sia svillaneggiato ufficialmente e mandato in esilio. E poi voglio che Fabrizio sia giudicato dai magistrati più onesti che si potranno trovare. E se quei signori, come spero, riconoscono che è innocente, sarà una cosa del tutto logica consentire che il signor arcivescovo faccia di Fabrizio il suo coadiutore e il suo futuro successore. Se non ci riesco, il conte e io ci ritiriamo. E se devo andarmene, voglio dare a Vostra Altezza un consiglio: mai perdonare a Rassi e mai lasciare gli stati di Parma. Se Vostra Altezza gli resterà vicina, quel bravo figliolo non le darà dei dispiaceri troppo grossi». Più tardi, la duchessa mandò a dire a Fabrizio che poteva tornare in città, ma senza farsi vedere. E bisogna dire che lui non si fece proprio vedere. Passava la vita travestito da contadino nella baracca di legno di un venditore di castagne, proprio di fronte alla porta della cittadella, sotto gli alberi della passeggiata. Era molto tardi, ma la duchessa fece chiamare Mosca. Prima di andar via, gli disse lei, dovete darmi qualche consiglio su come mi devo comportare con la principessa. Sono stanca morta. Ho fatto la commedia 1 ora sul palcoscenico e 5 ore nello studio. Domani, amica mia, prima della nostra passeggiata, fategli annunciare al principe e ditegli. Ieri sera ho fatto un lavoro da ministro con voi, vi ho dato dei consigli e per vostro ordine mi sono trovato a dover urtare la principessa. Dovete pagarmi. Lui si aspetterà che gli chiediate dei soldi e aggrotterà la fronte. Lasciatelo più che potete a torturarsi in questa malinconica idea. Poi ditegli, prego vostra altezza di ordinare che Fabrizio sia giudicato con facoltà di contraddittorio, vuol dire che lui deve essere in aula, dai 12 magistrati più stimati dello Stato. E senza perdere tempo gli date da firmare una piccola ordinanza scritta dalla vostra bella manina e che adesso io vi detterò e naturalmente metterò in una clausola che la prima sentenza è annullata. C'è una sola obiezione che vi può fare, ma se ci mettete un po' di calore non credo che ci penserà. Potrebbe rispondervi, bisogna che Fabrizio vada alla cittadella a costituirsi. In questo caso voi dovete rispondergli, andrà a costituirsi alla prigione della città. Lì il padrone sono io, vostro nipote potrà venire a trovarvi tutte le sere. Se il principe dice no, la sua fuga è stato un insulto all'onore della cittadella e per una questione di forma voglio che torni là da dove è scappato, allora voi dovete rispondergli no, perché alla cittadella sarebbe a disposizione di Rassi, il mio nemico. Se poi il principe insiste ancora, gli direte che andrete a passare una 15ina di giorni al vostro castello di Sacca. Chiamate Fabrizio e parlatene anche con lui di questo passo, che può farlo finire in prigione. A voler prevedere proprio tutto, certo che se mentre lui è sotto chiave Rassi perde la pazienza e mi fa avvelenare, allora Fabrizio correrebbe un brutto rischio, ma è improbabile. Sapete quel cuoco francese che mi son fatto venire? È un tipo molto divertente, fa sempre dei giochi di parole. Ora, giochi di parole e assassinio sono incompatibili. Ho già detto al nostro Fabrizio che ho rintracciato tutti i testimoni di quella sua bella azione piena di coraggio. È chiaro che era Giletti che voleva ucciderlo. Non ve ne avevo parlato di quei testimoni perché volevo farvi una sorpresa, ma è un progetto che è andato male perché il principe non ha voluto firmare. Ho detto al nostro Fabrizio che gli farò fare senz'altro una splendida carriera ecclesiastica, ma mi sarà molto difficile se i suoi nemici possono tirar fuori a Roma una accusa di omicidio. Lo capite anche voi, signora, che per Fabrizio ci vuole un processo e che sia il più solenne possibile, se no tutte le volte che sentirà il nome di Giletti sarà una tortura per lui. Sarebbe una vigliaccheria non affrontare un processo quando si è sicuri di essere innocenti. D'altra parte, riuscirei a farlo assolvere, anche se fosse colpevole. Quando gli ho parlato, il nostro impetuoso giovanotto non mi ha neanche lasciato finire. È corso a prendere l'almanacco ufficiale e abbiamo scelto insieme i 12 giudici più onesti e più esperti. E una volta fatta la lista, abbiamo tolto 6 nomi e al loro posto abbiamo messo 6 magistrati che sono miei nemici personali. Anzi, siccome di nemici siamo riusciti a trovarne solo 2, abbiamo aggiunto 4 farabutti legati a Rassi. La proposta di Mosca fece molta paura alla duchessa e non senza motivo, ma alla fine si arrese alla ragione e si fece dettare l'ordinanza che nominava i magistrati. Mosca se ne andò che erano già le 6 del mattino. Gina cercò di dormire ma non ci riuscì. Alle 9 fece colazione con Fabrizio e vide che lui stava morendo dalla voglia di essere processato. Alle 11, alla prima udienza del mattino, fu ricevuta dal principe, che firmò l'ordinanza senza la minima obiezione. Allora lei mandò il documento a Mosca e si mise a letto.